Conto alla rovescia. L'Italia nello spazio. Palazzo del Quirinale, this is Houston. Buongiorno, ingegner Nespoli. Buongiorno, Presidente, è un piacere sentirla da quassù. Innanzitutto siamo anche molto lieti di questo nome. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parla con la Stazione Spaziale Internazionale. Il 31 ottobre del 2007 alla missione Esperia partecipa l'ingegner Paolo Nespoli. È il quinto italiano in orbita e parla dunque da una posizione privilegiata. Innanzitutto, bentornati a questo appuntamento con Conto alla rovescia, l'Italia nello spazio. Con me in studio, come sempre, Giovanni Caprara, che ringrazio di essere qui a raccontare insieme a noi, appunto, ai protagonisti questa grande avventura. Ma subito in collegamento con noi Franco Malerba. Franco Malerba, classe 1946 da Busalla, primo astronauta italiano. Benvenuto. Buongiorno. Io ho subito una domanda che devo, come dire, di cui devo liberarmi. Leggo nella sua scheda 1965 maturità classica. Ma insomma, questa grande idea dello scientifico, fate lo scientifico, farete l'astronauta, che avevo io da ragazzino, lei lo smentisce. Ma sì, ma diciamo la verità, il classico ai miei tempi, non so se questa è una battuta cattiva, era una scuola di ampio spettro in cui si faceva anche della matematica e della fisica seria. Noi tra l'altro avemmo l'occasione di un corso pilota di fisica, il mio professore Vallebona, ricordo il suo nome con piacere e con affetto, ci dedicava delle ore in più facendo esperimenti di laboratorio nel pomeriggio, che normalmente era libero, del giovedì o del venerdì, per cui diciamo che ho avuto una preparazione un pochino più spinta del normale del liceo classico. Insomma, si può essere astronauti partendo dal classico. Lei peraltro, lo ricordo, nel 70 laurea in ingegneria elettronica, poi dottorato in fisica, ecco, via via il suo percorso si è indirizzato decisamente in questa direzione, verso lo spazio. Ah, assolutamente, anzi, se vuole un aneddoto, ho fatto ingegneria prima, che era la facoltà, diciamo così, più impegnativa dal punto di vista della quantità del lavoro, e l'ho fatta perché si diceva che avrebbe aperto più prospettive di lavoro, e forse è ancora vero oggi questo discorso. Viceversa, io amavo soprattutto la fisica, e così quando ho finito ingegneria, tra l'altro in tempi abbastanza brevi, nei famosi 5 anni canonici, ho fatto ancora poi fisica, in modo da completare la mia curiosità in questo settore. Nel frattempo però insegnucchiavo all'università, ho fatto degli anni di ricerca negli Stati Uniti, insomma facevo anche altre cose. Ecco, poi vedremo come si arriva ad essere astronauti, però vorrei chiedere a Giovanni Caprara, gli astronauti ovviamente sono gli eroi di questa storia, siamo tutti coscienti delle figure, in particolare gli astronauti americani che hanno aperto la via. L'Italia era molto distratta in questo ambito, con la presenza degli astronauti italiani c'è stata una svolta, a tuo avviso? Ma assolutamente sì, anche perché è difficile immaginare lo spazio senza l'uomo. Se non c'è quest'anima, lo spazio si inaridisce. È importante tutto il resto, naturalmente, dall'osservazione delle stelle alle telecomunicazioni, però l'uomo alla fine è sempre quello che attrae di più, perché ovviamente si mette in gioco, e mettersi in gioco nello spazio è una grande sfida unita ad un grandissimo fascino, perché purtroppo per la maggior parte di noi salire lassù rimane quasi impossibile. Assolutamente. Ai noi abbiamo dunque Franco Malerba con noi in collegamento. Abbiamo citato brevemente Nespoli, ma ricordiamo che la pattuglia è più ampia. Sentiamo un altro astronauta. Forse la cosa che adesso sembra più inverosimile, e forse è stata anche, diciamo, un certo scetticismo che aveva un po' assorbito tutto questo processo di selezione degli astronauti. Sembrava, quando mi sono cimentato nei primi processi di selezione, che fosse una cosa ancora molto molto lontana e non invece reale, come poi in effetti lo è stato. Tutto quello che va con, diciamo, con questo atteggiamento forse un po' scettico, forse considerato forse anche un po' velleitario allora, di qualcuno che voleva andare nello spazio quando ancora in Italia non c'era andato nessuno. Ecco, questo era il comandante Cayley. Ingegner Malerba, insomma, quando voi avete pensato di andare nello spazio, veramente non l'aveva fatto nessuno. Quanto fu complessa la selezione? Ma fu molto complessa. In effetti io ho partecipato alla primissima selezione dell'Agenzia Spaziale Europea e naturalmente il fenomeno, come ricordava anche d'altra parte Giovanni Caparra, risale a quel tempo, l'inizio della nostra amicizia. Ogni volta che c'era una selezione, era una specie di percorso a tappe, quasi un campionato, c'erano dei rimbalzi di stampo. Una volta facevamo le prove scientifiche, una volta facevamo le prove mediche, un'altra delle prove speciali con la centrifuga o con le sedie rotatorie, questi strumenti molto particolari, un po' simili a macchine di tortura che gli astronauti devono frequentare, e tutto questo dava dei rimbalzi di pubblica conoscenza, diciamo, che sicuramente aumentava la curiosità, non mi arrischio a dire l'interesse e l'impegno nello spazio, ma certamente la curiosità. Ricordo che quando io fui selezionato tra i primi finalisti, molti giornali scrissero di questa avventura, e la cosa più divertente era che dissero l'astronauta della porta accanto, quindi era quasi più la sorpresa, lo stupore, quasi come dire l'imbattersi con qualcuno che aveva la parlata italiana ma che aveva l'ambizione un po' folle di andare nello spazio, che non come dire la maturazione di un progetto meditato e preparato. E non mancarono nemmeno però le polemiche intorno alle selezioni, che cosa peraltro sarebbe sorprendente il contrario, direi. Ma direi che in quanto parlo della prima selezione dell'ESA, in quanto gestita a livello internazionale, era un po' difficile che da una parte che tutti fossero contenti, come d'altra parte era anche abbastanza difficile che si mutassero le carte in tavola. Devo dire che nell'ultimissima fase, quando io ero tra gli ultimi quattro, qui Giovanni potrebbe essere un osservatore più imparziale, il sostegno politico che nelle ultimissime fasi di una selezione internazionale finisce per essere necessario, forse non ci fu. Eravamo nel 78 ed erano gli anni in cui l'Italia viveva una crisi ben più grave, ben più importante, con il rapimento dell'onorevole Moro. Ricordo che il giorno del consiglio dell'ESA, quando si doveva decidere giusto appunto quale di questi finalisti sarebbero andati avanti per la prima missione, in Italia si cercava il cadavere dell'onorevole Moro nel lago della Duchessa, quindi insomma voi eravate lontani, anche i vostri sogni erano lontani dalla quotidianità, quantomeno non dalla realtà, dalla quotidianità. Direi di sì, forse qui Giovanni ci aiuterà, ma l'industria era già impegnata su questi programmi. Difatti noi avevamo una partecipazione al programma Space Lab di tutto rispetto. Air Italia in particolare all'epoca era uno dei contrattori di questa prima avventura internazionale. Abbiamo parlato effettivamente di questo ruolo, di questi anni complessi. Giovanni Caprara, allora, visto chiamato più volte a testimoniare di quegli anni. Sì, erano anni nei quali si stava cercando di cristallizzare un po' il programma spaziale, perché ricordiamo che nel 76 parte il satellite Sirio, il primo satellite per telecomunicazioni italiano, con la collaborazione del professor Carassa del Politecnico di Milano, e appunto c'erano diversi rivoli, come ricordava Franco Malerba, anche in Europa per quanto riguarda l'uomo. Però era un po' disperso questo mondo, non si capiva bene da che parte andare. In realtà poi l'Italia, e forse in quella fase direi in maniera molto saggia, ha deciso di percorrere diverse strade contemporaneamente, mantenendo quindi sia l'uomo nello spazio attraverso la partecipazione allo Space Lab, ma in parallelo sviluppando anche la tecnologia delle telecomunicazioni, varando un progetto addirittura per un piccolo razzo da utilizzare a bordo dello shuttle. Cioè ha cercato di mettere a punto, attraverso una cooperazione tra pubblico e privato, una realtà tecnologico-industriale che all'epoca era solo ai primi passi. Molte missioni dunque nel futuro di quell'Italia del 78, ma anche molti anni di attesa ancora. Dal 78 bisognerà superare tutti gli anni 80, entrare negli anni 90 finalmente, perché gli italiani siano veramente astronauti operativi. L'astronauta è in ultima analisi un esploratore. Esplorare, la parola esplorare, in orbita in pochi minuti a bordo di un razzo alto 60 metri è certamente un qualcosa che comporta una serie di possibili difficoltà tecniche. Decollare dal poligono di Baikonur, ecco, Giovanni Caprara ci parlava appunto di queste opzioni, di queste diverse opzioni che l'Italia tiene, naturalmente un rapporto che continua con gli Stati Uniti, ma come abbiamo sentito, questa era la voce di Roberto Vittori, qui siamo chiaramente negli anni, alla fine degli anni 90, anzi all'inizio del 2000, ma insomma è la maturazione di questi rapporti. Nel frattempo naturalmente Franco Malerba, poi Cheli, poi Guidoni, che sarà il primo europeo sulla stazione spaziale internazionale, ma anche Vittori con la Soyuz. Sì, la realtà della stazione spaziale ovviamente ha ampliato le possibilità e anche gli interessi per cercare di fare qualcosa di diverso. E Vittori in questo caso è interessante perché ha aperto a livello nazionale anche la collaborazione con il mondo militare. La nostra difesa si era dimostrata disponibile a sostenere un paio di missioni, come poi è accaduto, e quindi Vittori, già un pilota collaudatore ben affermato, è riuscito a materializzare il suo sogno e l'interesse dell'Italia. Ecco, non è che l'Italia, come dire, tenda un po' a perdersi o a tenere il piede troppe scarpe da un punto di vista in questa attività nello spazio negli ultimi anni? Ma io non direi. Dopo una prima fase dove si sono esplorati diversi rivoli, l'Italia in realtà ha compiuto delle scelte, per esempio nel campo delle telecomunicazioni, nel campo dell'osservazione della Terra, e certamente adesso l'uomo nello spazio non è un elemento da trascurare, perché abbiamo dato un grande contributo alla costruzione della stazione spaziale. Ricordo che il 40% della superficie della stazione stessa è stata costruita in Italia. Attraverso la costruzione dei moduli c'è stato un accordo con la NASA per cui abbiamo avuto in cambio del tempo umano, cioè gli astronauti possono andare sulla stazione a condurre delle attività. Insomma, ha gestito bene le possibilità che ci sono. Certo, di un paese che non ha lanciatori, peraltro, perché non solo di un paese, ma di un continente che non ha la possibilità di andare in proprio. No, certo, però adesso c'è la possibilità di fare nuova scienza, cercare nuove applicazioni sfruttando la stazione spaziale. Quindi è una grande opportunità che l'Italia può sfruttare. Franco Malerba, torniamo a quel 31 luglio del 92. Quindi il primo astronauta italiano nello spazio, che ricordi le dà ancora questa data? In effetti ogni tanto mi capita di rispondere alla classica domanda che tutti hanno in mente: ma cosa si prova in quei 10 minuti del lancio, magari 10 minuti prima e dopo il lancio? Ma così ve lo racconto anche a voi. In 10 minuti, in un certo senso, uno si aggrappa a tutte le cose che ha imparato, a tutte le certezze che si è costruito per convincersi che sta facendo una cosa molto buona e molto positiva. Intanto c'è un concetto di squadra: noi siamo una squadra che parte e che affronta questa difficoltà tutti assieme. C'è un comandante, era Lauren Shriver, che è una persona che ha già volato, che ci ispira fiducia, che ci dà senso di sicurezza, che se ci fosse un'emergenza saprebbe tra virgolette cosa fare. C'è la dimensione dell'amicizia, perché a bordo con me c'era tanti colleghi di cui avevo grande ammirazione e rispetto, ma in particolare c'era Claude Nicollier, astronauta svizzero, quindi europeo, tra l'altro francofono, quindi anche più vicino alla nostra cultura, che era stato selezionato, guarda caso, proprio in quella selezione europea del 77-78, e quindi avevamo condiviso tante avventure assieme in quella fase difficile della nostra carriera. E poi c'è naturalmente la dimensione del portare avanti un progetto di frontiera. Abbiamo con noi il satellite a filo, che è un oggetto assolutamente innovativo, con un'operazione che taluni hanno paragonato per complessità perfino allo sbarco sulla Luna, misurando la quantità di software coinvolto in questa operazione. E questo satellite è un made in Italy, l'idea è di un professore italiano, del professor Colombo, e quindi siamo particolarmente fieri di questo. Diciamo che vale davvero la pena. L'ultimo pensiero, quello che ci dà un pochino di ansietà, almeno che mi dà un pochino di ansietà, è quello del gabinetto spaziale, perché il gabinetto spaziale sperimentato a terra è una cosa, ma in assenza di peso è un'altra, e questa è di solito una battuta con cui cerco di diminuire la tensione che si crea, insomma, guardando le immagini di un lancio. Infine c'è la dimensione del mission control. Qualche volta si dimentica della importanza per la missione del mission control. Lì davvero c'è della gente di assoluta competenza, di assoluta dedizione, lavorano 24 ore su 24, c'è il flight director Chuck Shaw nel nostro caso, che è davvero un direttore d'orchestra, è capace di suonare tra virgolette qualsiasi strumento, dalla traiettoria ai life support systems alla guida, ed è la persona a cui noi guardiamo in caso di difficoltà per tirar fuori tutte le risorse possibili per riportarci a casa, come è successo nel famoso film e nella famosa missione piuttosto di Apollo 13, noi ce la ricordiamo attraverso l'interpretazione del film, e tutto questo ci rincuora in quei 10 minuti in cui ci giochiamo l'ascesa in orbita, in cui dobbiamo raggiungere la piccola velocità di 27.000 km all'ora in 10 minuti per poter diventare un satellite, per vivere e lavorare nello spazio, per girare nel cielo nero costellato di stelle. Franco, ma tu sei stato il primo astronauta italiano, quindi questo che effetto ti ha fatto? Perché aprivi una strada che naturalmente era molto ambita. Ma indubbiamente c'era anche un senso di grande, diciamo, pure responsabilità. Ora, se posso fare una piccola digressione non proprio diciamo così gloriosa, in quel tempo eravamo anche un po', come dire, un po' ruspanti, nel senso che non avevamo una grande organizzazione alle spalle. Io tra l'altro ero all'epoca astronauta dell'Agenzia Spaziale Italiana, non dell'ESA, che già aveva una sua maggiore maturità di organizzazione. E quindi era ancora più importante che il nostro piccolo team, alludo naturalmente anche a Umberto Guidoni, che ha fatto l'addestramento assieme a me, che poi ha volato sulla seconda missione del satellite a filo e poi sulla stazione spaziale. Eravamo un po', come dire, la punta dell'iceberg, anche un po', come dire, una finestra su questa Italia dello spazio che si affacciava all'avventura più impegnativa di tutti, che è quella di portare esseri umani nello spazio, no? Perché tra l'altro, facendo una piccola digressione, questa è un po', come dire, l'ultima prova. Vediamo adesso che i cinesi vogliono avere a tutti i costi la loro taikonauta spaziale, no? Umana, e questo è il test ultimo della maturità di un sistema industriale, politico, economico, scientifico, tecnologico, e questo peso c'era su di noi, c'era anche sulla missione, perché non dimentichiamo che la missione era una missione ardimentosa, che poi ha anche dato qualche problema, anzi qualche piccolo grosso problema, con il fatto che questo rocchetto che doveva srotolare il nostro cavo del satellite a filo a un certo punto si inceppò e rimanemmo lì a provare e riprovare. Storia, Malerba, questo ci porta lontano come quel filo. Io la ringrazio perché siamo un po' stretti nei tempi ormai, ma sicuramente, insomma, tutti quegli elementi, ed è bello sentirla raccontare ormai a 17 anni di distanza quanta emozione ci sia nel suo racconto. Grazie molte a Franco Malerba per essere stato con noi. Io vorrei ancora farvi sentire in questa storia, in questo anche profilo degli astronauti, un altro contributo di voce. Facendo queste passeggiate spaziali, che ripeto non sono passeggiate per niente, sono delle maratone spaziali. Pensate che prima che l'astronauta possa uscire ci vogliono circa 2 ore di attività addirittura. Paolo Nespoli, altro che passeggiate spaziali, qui siamo di nuovo tornati ai tempi più recenti, insomma lo spazio, Giovanni, diventa in qualche modo normalità, ma è sempre anormalità. Nespoli racconta quanto sia complicato prepararsi le ore per una passeggiata spaziale, poi ci sono nuovi obiettivi, insomma per gli astronauti italiani l'avventura è solo cominciata. Assolutamente, e si prospetta per Nespoli per esempio un grande soggiorno addirittura di 6 mesi sulla stazione spaziale. Sarà quindi il primo italiano ad abitare così a lungo al di fuori della Terra, È un soggiorno sempre non facile, perché Roberto Vittori racconta invece della difficoltà di vivere lassù. Non è proprio una passeggiata, come lui dice, perché la stazione spaziale è comunque un ambiente difficile, ci sono problemi di vibrazioni, odori, cioè insomma uno deve essere veramente votato per volare nello spazio. Non è un posto semplice. A proposito di chi è votato nello spazio, un'ultima voce. Good afternoon everybody, I am Samantha Cristoforetti, I'm 32 years old and I am a European of Italian nationality. I am a European of Italian nationality. Samantha Cristoforetti si presenta in questo modo, prima candidata astronauta italiana assieme a Luca Parmitano. Ecco, qui siamo in pieno nel futuro, sono questi astronauti nella fase di formazione, e quale futuro avranno? Ma sicuramente un futuro sulla stazione spaziale, perché siamo partecipi di questo grande piedater cosmico. Ma potrebbe anche essere che, almeno per Samantha, si apra anche la prospettiva lunare. Non è detto, non è una cosa impossibile. Anzi, io credo che se l'Europa si impegnerà, visto che ora l'amministrazione americana di Obama è più aperta alla collaborazione per l'insediamento di una colonia spaziale sulla Luna, da parte europea c'è anche la necessità di preparare questi uomini e queste donne che da lassù, da 380.000 km di distanza, ci racconteranno la vita in un nuovo mondo. Grazie a Giovanni Caprara di essere stato con noi. Lo ricordo, questo è il terzo di una serie di appuntamenti che potete sentire e risentire su radio24.it, la storia dello spazio italiano, una storia che naturalmente è legata e non potrebbe essere altrimenti ora più che mai a quella dello spazio di tutto il nostro pianeta, di tutti i popoli che negli ultimi anni cercano di costruire anche nella complessità una visione per il futuro. Questo è stato il nostro racconto, quindi a tutti voi naturalmente grazie di essere stati con noi. 3, 2, 1. We have ignition.